Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Per circa 30 minuti ero stato seguito da un gommone con a bordo Francesca, mia moglie. A un certo punto mi ero fermato e avevo fatto capire di tornare indietro. Nei 294 giorni successivi, a parte il mio respiro e quello del vento, non avrei sentito quasi nessun altro rumore. Mi chiamo Alex Bellini, ho 34 anni, vivo con le valigie in mano e oggi sono qui. Capita delle volte di incontrare delle persone che facciano della loro vita una sorta di somma di imprese, una dietro l'altro, come se avessero bisogno di compiere imprese per continuare a sopravvivere a se stessi. È il caso, diciamo, fortunato mio di oggi, che incontro ed è ospite in diretta. Credo per la prima volta abbiamo un ospite in studio, Paolino. No, come no? Sì, è vero, avevamo avuto Matilde, che era la ragazzina, però diciamo un ospite che ci scrive una storia, che ce la manda e che è ormai conosciuto non solo grazie a nome, ma soprattutto per merito suo, direi che è la prima volta. Qualcuno di voi avrà sicuramente già sentito parlare di Alex Bellini, è un uomo che ogni tanto prende una barca, prende dei remi e attraversa degli oceani. La storia che raccontiamo oggi è la sua e Alex è qui con noi in diretta e quindi a breve sarà in studio. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, è Voi Siete Qui Radio 24. Ognuno di noi a modo suo, in qualche modo, compie o ha compiuto un'impresa. Quindi parliamo quella di Alex ovviamente, ma parliamo anche delle vostre. Se vi è capitato di acciuffare un lavoro che immaginavate non sareste mai stati in grado di prendere, se siete riusciti a acciuffare una persona che non pensavate di riuscire ad acciuffare. 349-238-6666. Qualsiasi sia stata la vostra impresa, oggi si parla anche di quello. Si parla però, ovviamente, non potremmo fare diversamente, della storia di Alex. Abbiamo scelto di raccontare una parte particolare della sua avventura, che poi chiaramente ci racconterà molto meglio più tardi lui, qui direttamente dai microfoni di Radio 24, ed è la parte che riguarda la partenza di un'impresa. Perché è facile immaginare quando un'impresa è a metà o sta per finire, ma quando si comincia, come si comincia? Ecco, lui comincia così. Arrivati al club nautico, avevo trovato numerosissime persone affollate sul pontile, tutte assorte a guardare la mia barca a remi ormeggiata a una decina di metri di distanza. Io in quel momento ero già partito e chiunque mi avesse guardato dritto negli occhi avrebbe visto solo lontananza. Mi sentivo molto distante da tutto quel tramestio, ormai avvolto nella pace del mio primo giorno di mare. Quegli ultimi attimi a terra li avevo vissuti un po' confusamente e qualunque cosa facessi o dicessi, l'unico particolare di cui avevo coscienza era la mano di Francesca che stringevo nella mia. La paura più grande il giorno che sono partito è sicuramente quello, la consapevolezza legata al fatto che mollavo mia moglie e tutto ciò che conoscevo per i prossimi 10 mesi. Contestualmente la gioia più grande era proprio quella, accettare la difficoltà di staccarsi, questo momento di strappo tra quello che ero e quello che sarei stato per i prossimi 10 mesi. Se quella mattina, quando mi ero svegliato, le condizioni meteo mi erano parse ideali, il cielo a mezzogiorno si era completamente coperto. E ogni tanto il vento si alzava a raffiche così forti da strappare gli ombrelloni piantati nella sabbia. Con un po' di amarezza avevo deciso fino all'ultimo istante di non escludere la possibilità di rinviare la partenza. E solo se il tempo mi avesse dato la massima fiducia sarei partito. L'errore più grave che avrei potuto fare era quello di farmi influenzare dalla tanta gente stretta attorno a me, arrivata lì solo per vedermi partire. Ricordo che un giorno un vecchio marinaio di Genova mi aveva detto che l'abilità di un buon navigatore non è quella di saper affrontare le peggiori condizioni, ma quella di saper rinunciare a partire se le condizioni non lo permettono. Beh, non avevo ancora finito di pensarlo che ero già a bordo della mia barca a sciogliere il nodo che la teneva legata a una boa. Mi ero guardato attorno e avevo visto una folla silenziosa che mi osservava in attesa di un mio cenno o di un mio movimento. In attesa di sentire arrivare dalla tensione muscolare il segno inequivocabile che il momento di partire era arrivato. Avevo tentennato qualche secondo, poi mi ero seduto sul carrello, avevo impugnato i remi e mi ero detto: «Ok, andiamo». Un attimo dopo la sirena del Club de Regatas di Lima accompagnava le mie prime remate verso l'Oceano Pacifico. Per circa 30 minuti ero stato seguito da un piccolo gommone con a bordo Francesca, sua mamma e alcuni soci del club. Rimanevano a una distanza che mi era impossibile parlarle, del resto non c'era granché da dire. A un certo punto mi ero fermato, avevo lasciato che il gommone mi si avvicinasse e avevo fatto capire di tornare indietro. Eravamo a circa un miglio e mezzo dalla riva ed era ora che loro rientrassero. Avevo baciato Francesca un'ultima volta e mi ero messo ai remi. Ho pensato per un brevissimo momento di non partire quando mi sono reso conto di quello che stavo, in cui mi stavo buttando. Il momento in cui stavo mollando gli ormeggi è stato il momento, uno dei momenti più difficili. Però bisogna prendere con coraggio la propria vita e guidarla verso lì di lontani, quindi anche con responsabilità ho accettato l'idea di fare quello che avevo deciso di fare. In quei secondi in cui io avevo ripreso la mia rotta verso ovest e lei la sua verso terra, mi era sembrato di percepire nell'aria tra me e lei tutta la solitudine e la tristezza che da soli avremmo vissuto prima del mio arrivo in Australia. Non era passato troppo tempo prima che la sua sagoma si perdesse all'orizzonte. Nei 294 giorni successivi, a parte il mio respiro e quello del vento, il frastuono dei miei pensieri, lo scricchiolio della barca e ogni tanto il fragore dei tuoni, non avrei sentito quasi nessun altro rumore. I see the lights of the city, I see them rising up. They're moving in the dark, a fire without a spark. And the morning's moving fast. The morning's moving fast, night is coming on. Somewhere on the mountain around the ragged... Quando senti parlare di una persona come Alex Bellini e delle sue imprese, la prima cosa che pensi è: questo è matto. E io credo che questo sia un modo per autorassicurarci, per confortarci tra noi del fatto che una persona normale come noi in quel caso lì non penserebbe mai di fare una cosa come attraversare l'Oceano Pacifico a remi su una barca in vetro resina lunga 7 metri e mezzo e larga 1,80 m. Perché se quel seme lì ci si piantasse in testa, potrebbe diventare molto pericoloso. Se noi pensassimo che Alex fosse una persona normale come noi, con una casa, una moglie, dei bambini, una vita con dei bisogni simili ai nostri, probabilmente cominceremmo a pensare che forse anche in noi c'è una parte nascosta che vorrebbe tentare un'esperienza come quella. Sì, probabilmente non così rischiosa, non così complicata, non così assoluta, ma qualcosa di più abbordabile magari, alla nostra portata. Qualcosa di semplice, ma qualcosa che magari sembra assurda come, che so, fare una vacanza da soli, ad esempio, o allenarsi per correre una maratona, o anche solo fare una gita in bicicletta senza fermarsi mai, fino a quando non ce ne abbiamo più. Dopo aver seguito e letto la storia di Alex Bellini, ho capito che io ero il primo a sbolognare storie come le sue con un «vabbè dai, questi qua sono dei matti». E poi proseguivo la mia vita normale all'apparenza senza rischi. Ecco, da oggi però, anche dopo che l'ho incontrato, voglio smetterla di vederla così. Sì, io credo che Alex sia una persona normale, esattamente come tutti noi. E come tutti noi, sublima una sua forma di religione e la celebra a modo suo. Non so esattamente come si chiami e che forma abbia la sua religione, però sicuramente lì dentro ci sono la solitudine e l'enormità della natura. Io sono terribilmente affascinato dalle persone come lui, proprio perché un po' mi mettono in crisi. Mettono in crisi le mie certezze per cui sia meglio vivere, ad esempio, una vita semplice piuttosto che complicarsela in nome di grandi obiettivi. E della storia di Alex che attraversa l'Oceano Pacifico e i suoi 18.000 chilometri in 294 giorni di navigazione solitaria, la cosa che mi incuriosiva di più era la partenza. Perché davvero è quasi più facile immaginarlo nel mezzo dell'impresa, no? Con l'oceano e solo l'oceano a perdita d'occhio, con le onde, il sole, la tempesta e lui già con una bella barba lunga come quella di Mosè. Ma l'inizio, mettere piede sulla barca, sapendo che su quella barca e solo su quella barca ci rimarrai per mesi. E le prime remate, o lo sguardo verso la terra che si allontana perché tu ti ci stai allontanando, di proposito. È il bacio con la propria moglie. Che ti appoggia ovviamente, ti incoraggia, ma sai che lo fa per te. Sai che starà male e sarà sola quanto e forse più di te. Che almeno hai qualcosa da fare, no? Almeno devi sopravvivere. Ecco, delle grandi imprese è sempre il primo passo che mi spaventa e mi incuriosisce. Perché se non fosse stato per l'ufficialità dell'impresa di Alex, proviamoci, se lui avesse fatto tutto in sordina, senza far sapere quando e da dove sarebbe partito. Ecco, agli occhi di uno che lo guardava dalla banchina, di un pescatore che era lì, che passava da quel momento, in quel momento, lui sarebbe potuto uscire per una rematina di 2 ore, invece che per una traversata oceanica. Che cosa cambia? Come parte uno che parte per un viaggione invece che per un giretto? Che cosa c'è di diverso? La prima mossa? La velocità con cui si muove? O i vestiti? Cosa? Lo sguardo? E la cosa che mi mette ancora più in crisi nel suo racconto è proprio questo, che non cambia nulla. Che visto da fuori non c'è nulla di diverso nel suo sguardo, nella sua remata, nei primi passi di una persona che compie un'impresa assoluta rispetto a un'altra che semplicemente sta facendosi un giro, una corsetta o un'uscitina in barca. Ecco perché voglio convincermi che Alex, a differenza di quanto si pensi, sia una persona normale, che in fondo mi assomiglia e ci assomiglia un po', anche se non abbiamo festeggiato i nostri 30 anni da soli con un panettone tutto schiacciato in mezzo all'oceano, anche se noi non sappiamo come si rema e come si affrontano onde di 5-6 metri. Sì, io voglio che Alex mi somigli, perché se siamo un po' uguali, anche se io non attraverserò mai l'Oceano Pacifico a remi, pensando a lui, ecco allora iniziare a fare qualsiasi cosa, grande o piccola che sia, mi fa già un po' meno paura. Who cares that it makes shower since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? E insomma, che sia la prima volta o meno che abbiamo un ospite in studio, Alex Bellini è qui con me. Buongiorno Alex. Buongiorno Matteo. Grazie per essere venuto innanzitutto. Grazie a te per aver accettato. Allora, partiamo da qui. Tu sei una persona normale. Io sono normale, assolutamente, sì. Tu lo puoi testimoniare, no? Beh, sì, a parte il fatto che c'è una somiglianza tra me e te, che yes. Ma per la barba più che altro, direi, forse per il colore degli occhi. Sì, potrei testimoniare che è una persona normale, cioè che insomma che indossi dei jeans e una felpa, sì. E hai una moglie normale, come... Avete anche 2 figli, vero? Sì. Abbiamo 2 figlie, la più grande 3 anni, la più piccola poco tempo compiuto 1 anno. Tu dove eri quando sono nate? Io ero per la bambina più grande, quindi Sofia, all'epoca vivevamo in Valtellina. Uh-huh. Mentre ed eri a casa? Ed ero a casa, okay, sì, ero in fianco a mia moglie, proprio l'ho presa al volo. Ok, come un marito normale. Sì, ok. La seconda, Margherita, invece è nata che io correvo il mio 63esimo giorno di corsa attraverso gli Stati Uniti, quindi non ero a fianco a mia moglie, non ero a fianco della mia famiglia in quel momento. Perché, diciamo, tu sei conosciuto e famoso per quell'impresa lì dei remi, giusto? Sì. Più o meno, cioè, nel sì. senso che andiamo con ordine, hai attraversato l'Atlantico in che anno? Ho fatto i primi 2 tentativi di traversata dell'Atlantico nel 2004, okay. Entrambi falliti, il secondo con un naufragio spaventoso, mi sono salvato... Per una tempesta? Sì, sì, proprio il vento mi ha portato con gran forza contro Formentera, l'isola uh-huh. delle Baleari, dove poi sono naufragato, salvandomi veramente per un grandissimo colpo di fortuna. Nel 2005 sono ripartito, sempre da Genova, e in 226 giorni sono giunto a Fortaleza, in Brasile. Mm. 2008 la traversata del Pacifico e nel 2011, proprio lo scorso anno, ho attraversato di corsa gli Stati Uniti, che era semplicemente la porzione di terra che separava i 2 oceani. Ah, ok, quindi hai voluto percorrerla. Esatto. Per fare... Però manca ancora un pezzo, no? Questo assolutamente punto. Sì. Cosa manca? Tutta l'Asia? Manca tanto tutta l'Australia, tutto il continente australiano, okay. E poi l'Oceano Indiano. Senti, torniamo un attimo a quel primo giorno in Perù, cioè sì. Il primo giorno di remate. Mi ricordi, la data precisa era il... Il 18 febbraio, o il 21. 21 febbraio, scusate. Sì, si confondono un po' i giorni. Chiedo conferma a mia moglie. Il 21, che dice di sì, 21 sì, febbraio 20 del 2008. 2008. Sì. Tu hai una barca che è fatta in vetroresina, sì, giusto? Che ti sei fatto tu però. No, in realtà io non sarebbe a galla una barca costruita da me. Quindi mi sono però ho visto delle immagini in cui tu la scartavetri. Sì, beh sì, perché una volta che la barca arriva in cantiere, mm-hmm, la smonto e la rimonto, perché devo capire come è fatta, okay, come funziona, devo proprio entrare dentro nelle fibre della barca, okay, perché potrebbe capitare l'occasione di doverla riparare, quindi devo sapere come poter intervenire, no? E i remi sono remi normali invece, sì, sono dei remi lunghi carbonio, 2,98 metri, sono dei remi tipici da canottaggio. Quindi tu parti da Lima, giusto? Mm-hmm. E in pochissimo tempo non vedi più terra. Quanto ci metti prima di... già il primo giorno? Sì, la mattina del secondo giorno non vedevo più terra. E tu hai davanti a te, e più o meno lo sai perché una stima l'avevi fatta, giusto? Sì, hai davanti, sì, a te 293 giorni. Sì, io speravo di impiegarne 8 mesi. Invece che 10. Com'è la giornata tipo di uno, nel senso che non che ci siano tante persone che attraversano l'oceano. Quanti hanno attraversato il Pacifico, Remi? Considerando anche la rotta nord, sì, e considerando anche quelli successivi alla mia, sì, al mio tentativo, sono 3. Ok, siete in 3 quindi. Sì, 3 più me, 4. Mi piacerebbe, ok, siete in 4, mi piacerebbe. Sono pochissime le cose per cui si è in 4 al mondo ad averle fatte. Che cosa, come funziona la giornata? Che ora ti svegli? A parte remare, immagino, per la maggior parte del tempo. Allora, hai due alternative. Allora, ti puoi svegliare per un colpo di onda che ti colpisce notturno, quindi lì la giornata comincia comunque. In alternativa, nella condizione migliore, mi svegliavo alle 5 e mezza. Ero molto preciso, metodico, no? Okay. Alle 5 e mezza la mattina una sveglia, una rapida colazione, e non appena il sole sorgeva io cominciavo a remare. Remavo fino a tarda sera, fino alle 10 di sera, con intervalli regolari per mangiare e per bere. Alle 10 terminavo la mia giornata ai remi, mi mettevo nella mia cabina, mangiavo. Che era grande quanto, per dare un'idea, per chi non ha visto le foto? Era 2,25 m per un metro di larghezza. Quindi ci stavi sdraiato? Ci stavo sdraiato, ci stavo anche seduto, sì. Era non in piedi, comodo. Per quando riuscivi, no, a stare in piedi durante solo il giorno? Fuori dalla barca, nel piano calpestabile, dove poi mi sarei dovuto sedere al carrello. Quindi io un giorno, ti racconto questo aneddoto, avevo calcolato i passi che facevo durante 24 ore, erano 40 passi al giorno. Ok. Sì, su questo piano calpestabile di 2 metri. La barca... che facevi di proposito? Cioè facevi avanti e indietro per sgranchirti le gambe? No, magari dovevo andare a prendere un pacchetto di biscotti piuttosto, okay, che andare a raccogliere l'ancora perché galleggiante. Perché c'era la cabina a poppa, giusto? C'era, sì, la parte posteriore della barca, invece nella parte anteriore, cioè a prua, c'era un gavone. Cabina. Sì, esatto, dove avevo tutte le mie attrezzature di bordo, le mie scorte di cibo. Eccetera. Senti, saluta Alex che scrive, ti saluta Paolo e dice tutti i giorni gli mandavo un aforisma diverso via SMS. Mi ricordo, ma sai che sono le persone che mi seguivano erano numerosissime. E ti scrivevano come? Via internet? Avevo un servizio SMS gratuito che dal mio sito inviava direttamente brevi messaggi di testo direttamente sul mio telefono satellitare, che era la mia unica fonte di informazione, perché poi alcune di queste persone erano deputate alla raccolta di informazioni per, non so, le Olimpiadi invernali, le ho seguite attraverso questi SMS. Certo, 10 mesi in mare, diciamo, qualcosa per distrarti, ne hai bisogno. Scrive invece Aldo, la mia impresa è stata mangiare 4 piatti di cassola in una volta sola. La foto di Alex che potete vedere sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui, che è anche sul profilo Facebook del programma, che Voi Siete Qui Radio 24, è di quelle che ho visto una delle sue foto più belle. Lui ha lo sguardo dritto nell'obiettivo, ha la barba foltissima, i capelli lunghi e ha lo sguardo è a metà tra un folle e un genio. Impresa, sostantivo femminile, assunto fondato su un programma notevole o particolarmente impegnativo, attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni. In araldica, rappresentazione simbolica di una linea di condotta, costituita da un motto e da una figura che vicendevolmente si interpretano. Etimo, femminile sostantivo di impreso, participio passato di imprendere, data prima del 1374. Le 16:35 minuti, è venerdì 26 ottobre 2012, in studio con noi Alex Bellini, che è uno dei quattro uomini ad aver attraversato il Pacifico a remi. Quanti prima e quanti dopo di te? Due prima e uno dopo. Ok, quindi tu eri il terzo di fatto. Sì. Senti, la domanda che ti avrei tenuto per la fine, ma che invece ti faccio subito, è perché? Perché no? È molto semplice. Altra domanda. Scusami, andiamo con qualche domanda tecnica che arriva via SMS al 349-238-6666. Come faceva a non andare alla deriva quando dormiva? Accettando, ma non si può non andare alla deriva. Ossia, ci sono state condizioni in cui la profondità del mare era 10.000 metri. Sono passato sotto una delle fosse più profonde che esistono sulla faccia della terra. Non è possibile non andare alla deriva. E questa è l'avventura. Accettare che ogni giorno si debba ripartire da zero. Io mi è capitato diverse volte di remare facendo una fatica della miseria e il giorno dopo trovarmi esattamente nel punto in cui ero il giorno prima. Questa è l'avventura, accettazione di quello che ti viene dato e sfruttare quelle poche occasioni per farti largo a gomitata, no? Tra l'altro diciamo prima fuori onda che quando c'erano venti molto forti o tempeste molto forti tu avevi un'ancora galleggiante, sì, che è una specie di paracadute nel, sì, mare, giusto? Che, sì, ti tiene la prua verso il vento, esatto, più o meno, sì, e che però non è che riduce la deriva, semplicemente diminuisce di un terzo. Sì, un terzo, esattamente, sì. Quindi se invece che andare, mi dicevi, un 1.800, fai un 1.200. Fai un 1.000 indietro, sì, più, no, o meno. E invece vorrei commentare con te, ne parlavamo prima, perché è arrivato questo commento sul profilo Facebook del programma, però guarda, ti dirò, parlandone, raccontando in giro che saresti venuto, più di una volta ho sentito questa cosa, ed è questo commento qua. A volte è più difficile alzarsi tutti i giorni, lavorare, subire, imporre, cucinare, insomma vivere la vita quotidiana, che non remare per 294 giorni nel Pacifico. Vuoi rispondere? Io una risposta ce l'avrei, però rispondi prima, sì, tu. Io sono d'accordo, come si chiama questo ascoltatore? Si chiama Claudio. Claudio, hai perfettamente ragione, hai assolutamente ragione, hai tutto il mio appoggio su questo. Cos'altro ti posso dire? Ossia, le avventure più impegnative sono sicuramente quelle che si vivono a terra, però ricordiamoci che c'è sempre la facoltà di scegliere, ecco, scegliamo quello in cui vogliamo battere, scegliamo la vita che vogliamo, che poi insomma anch'io ho una famiglia e so che cosa vuol dire mantenere una famiglia, avere responsabilità eccetera. Però questo non mi esime dal bisogno mio di mettermi in alcune... Tu a 23 anni studiavi scienze bancarie. Sì, dicevi, esatto. E ti sei visto 10 anni dopo e quello che hai visto non ti piaceva. Esatto, c'era una forte discrepanza tra i sogni che nutrivo all'epoca e quello, il destino a cui sarei andato irrimediabilmente incontro, e questa discrepanza assolutamente non mi faceva stare tranquillo. Da lì ho iniziato ad avvertire una sorta di irrequietezza interiore che mi faceva essere e mi faceva sognare di vivere la vita di qualcun altro o lontano dalla vita che vivevo, e ho avuto tanta paura. Quando le persone mi dicono che coraggio ci vuole attraversare una scena, ma ragazzi, ma non sapete la paura che avevo a non farlo. È più la paura a rimanere a terra e quindi vivere una vita che non mi assomiglia, uh-huh, di quello del coraggio che ci vuole per attraversare una scena. E quindi qual è stata la prima cosa che hai fatto lì a 23 anni? Intanto ho cercato di interrompere quello che stavo facendo. Era la prima azione. Hai mollato scienze economiche, sì, pronti via. Sì, sì, sì, esatto. Se potevo incidere su una cosa, perché poi alla fine bisogna e basta semplicemente fare una cosa piccola, semplice, per dare un altro corso alla vita. Quindi ho interrotto congelandolo, perché all'epoca non avevo ancora minimamente idea di quello che sarebbe accaduto nella, mm-hmm, mia vita. Ho congelato lì, mi sono iscritto a un corso di fotografia, mm-hmm, ho detto, chissà che magari riesco a fare una cosa e l'altra, viaggiare e anche, sì, mantenermi. La fotografia poi è rimasta una passione, però nel frattempo è diventato, cioè questo piccolo sentiero che avevo intrapreso nel frattempo è diventato una grossa autostrada, no? Certo, dove poi... certo, e siamo arrivati qui. Arrivano altri messaggi, vabbè, cose tecniche, tipo, anche perché purtroppo il tempo sta volando. Cosa mangiavi? Mangiavo prodotti liofilizzati. Ok, e ogni tanto pescavi, ho visto molto, delle foto. Molto spesso pescavo, sì. Nicola invece fa una domanda secca che è molto interessante ed è, pregavi? Sì, molto. Io non ho ancora incontrato un navigatore, un esploratore ateo. cioè, è proprio un istinto naturale quello di affidarsi a un certo punto, nel momento del pericolo, a qualcuno che possa prendere la tua vita e condurla fuori dall'ostacolo. Io mi sono spesso trovato a pregare in ginocchio chiedendo al Signore o chiunque fosse in ascolto di portarmi fuori da lì, perché da solo non ce la facevo. Io sono stato 5 giorni a digiuno in mezzo all'Atlantico perché avevo finito le scorte di cibo. come fai a sopravvivere a una cosa così se non affidandoti a qualcuno, a qualcun altro? Beh, e tu sei sempre stato credente o lo sei diventato? Ma è un discorso che forse richiederebbe più ampio. Sì, sì, più sì, infatti, abbiamo un minuto, quindi ti farei un'altra domanda. Ed è: cosa fai adesso? Tu fai il motivatore, giusto? Fai public speaking? Sì, esatto, esatto. Cerco di creare le analogie tra la vita quotidiana e le avventure, dicendo semplicemente una cosa, che alle persone, che nessuno ha bisogno di un motivatore come me, però io devo motivare le persone a vederla secondo il mio punto di vista, che è sufficiente quello che hanno dentro per riuscire a esprimere. Quindi è vero che noi ci io e te ci somigliamo molto, più di quanto, più, sì. Oltre la barba. Sì, sì, sì. Senti, poi ci salutiamo al volo, il prossimo progetto è? Il prossimo progetto, stiamo lavorando su più fronti, sto scrivendo un libro, ne scriverò prossimamente un altro, sto cercando di fare un'avventura familiare, insomma, facendo un'avventura, un'esperienza di vita all'estero. Mi sto dedicando a un progetto a metà strada tra l'avventura e la ricerca scientifica, si tratterà di sopravvivere su un iceberg fino al suo completo scioglimento. Grazie ad Alex Bellini, che vi assicuro mi somiglia molto di più di quanto sembri. Grazie mille, grazie, Alex. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era sua, era di Alex, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Enrico e chiamo da Ancona. La storia del lunedì è la mia e parla di raccomandazioni. Questa è la mia storia e io sono qui.